البلاد طردوا الأجداد. صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو. فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال. صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو. قالوا يا سلام آه يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا نرجعها. صفقة جاو صفقة جاو صفقة. Buongiorno Palestina. 145esima trasmissione su Radio Wombat. Raggiunto l'accordo per il cessate il fuoco a Gaza, una vittoria per la resistenza palestinese dopo 15 mesi di genocidio. I voti alla Knesset parlano chiaro: 24 voti a favore e 8 contro, quelli dell'estrema destra con Ben-Gvir e Smotrich che hanno dato le dimissioni dal governo. La determinazione del popolo e della resistenza palestinese costringe l'occupazione israeliana ad accettare le proprie condizioni. Cessate il fuoco, scambio di prigionieri, ritiro delle forze israeliane e ritorno dei profughi nel nord di Gaza. Non c'è purtroppo grande ottimismo su questa tregua, anche perché dall'annuncio di mercoledì scorso sono stati uccisi ancora 122 palestinesi. Ma la società israeliana si è spaccata su questa decisione e sta implodendo su se stessa. Complessi i termini dell'accordo e di difficile interpretazione, soprattutto quando Netanyahu promette alla destra la ripresa della guerra, questo per favorire i falchi, preannunciando che ritornerà ad aggredire i palestinesi dopo il rilascio degli ostaggi, un modo per dimostrare di voler rimanere in sella al suo scellerato governo. In questo numero ascolterete il silenzio vergognoso dell'Occidente nelle parole di Ilan Pappé. A seguire, Firenze per la Palestina con le voci dal presidio di piazza Shirin Abu Akleh e sotto il rettorato universitario per chiedere le dimissioni della rettrice Petrucci e l'interruzione di tutte le collaborazioni dell'università con le aziende israeliane responsabili del genocidio. Ascolterete poi le interviste a Laila Hassan dei Giovani Palestinesi d'Italia e Karem Rohana, sanitario e attivista palestinese, intervistati al cinema Alfieri alla prima del docufilm dal titolo Noada Land, un reportage che è stato girato prima del 2023 su Massafra Yatta in Cisgiordania, dove la comunità rurale di 20 villaggi ha subito la distruzione sistematica delle case, delle scuole, dei pozzi e dei pascoli per rendere la zona un poligono di tiro per l'esercito israeliano. Si avvicina il 27 gennaio e il giorno della memoria, ricordare al tempo di Gaza, è il titolo di una conferenza realizzata da Mai Indifferenti, voci ebraiche per la pace, che si è tenuta il 19 gennaio presso la Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli a Milano. Ascolterete un'intervista ad una delle organizzatrici. Tante le manifestazioni e i presidi che si tengono ovunque in Italia per la liberazione della Palestina e il riconoscimento dello Stato di Palestina. Alla fine della trasmissione vi leggeremo un breve elenco delle prossime iniziative a Firenze e in Toscana. Ascolterete tutto questo dopo la rassegna stampa a cura di Angela e un breve stacco musicale. Buongiorno Palestina, sono Angela. Cominciamo questa rassegna stampa con l'articolo dal titolo Resa completa, come Gaza ha sconfitto Israele e cosa significa, pubblicato su Palestine Chronicle Italia. Articolo che fa un'analisi dell'accordo raggiunto tra Hamas e Israele sul cessate il fuoco. L'autore, Ramzi Baroud, sottolinea la forza della resistenza palestinese e la sconfitta militare di Israele, prendendo a prestito le parole di Ben-Gvir, che ha definito lui stesso l'accordo una totale resa ad Hamas. Il fatto che dopo 15 mesi Israele non sia riuscito a mettere fuori gioco Hamas, nonostante la potenza militare di cui dispone, dimostra che per raggiungere l'obiettivo Israele avrebbe dovuto annientare tutta la popolazione civile di Gaza, cosa che si può fare solo sganciando una bomba nucleare sulla popolazione, come aveva proposto il ministro Amichai Eliyahu, perché per eliminare la resistenza a Gaza bisognerebbe spezzare il legame duraturo tra la popolazione e la resistenza stessa, e non è con l'uccisione di alcuni combattenti che si può raggiungere questo obiettivo. Ecco perché Hamas, invece di essere indebolito, è ancora più forte dopo 15 mesi di combattimenti. Quello che i media mainstream non dicono è che Israele ha subito perdite devastanti, e quello che è straordinario è che queste perdite sono state inflitte da gruppi di resistenza popolare che facevano affidamento sulle proprie strategie e su tutta la popolazione di Gaza. Questa resa riflette la stessa ammissione di Israele di non essere stato in grado di rioccupare Gaza, distruggere la resistenza ed effettuare la pulizia etnica dei palestinesi. Ecco, per capire meglio che ruolo ha avuto ed ha Hamas nel contesto della resistenza, vi invito a leggere l'articolo di Ashraf Nubani dal titolo «Perché l'Occidente si sbaglia su Hamas», pubblicato da Amicizia Italo-Palestinese. L'autore sottolinea come sia scorretto equiparare Hamas a gruppi come l'ISIS, operazione che purtroppo viene fatta in Occidente e che denota un sentimento islamofobo. Hamas è un movimento di liberazione nazionale, paragonabile al Fronte di Liberazione Nazionale dell'Algeria o all'African National Congress in Sudafrica. È allo stesso tempo un movimento di resistenza e un'organizzazione sociale. Il fatto che in passato Hamas abbia usato tatticamente delle azioni suicide è importante capire come queste vadano inquadrate in un contesto di violenza inaudita da parte di Israele. Rappresentavano la reazione alla brutalità dell'occupazione, evidenziando l'enorme asimmetria di potere militare tra Israele e il popolo palestinese occupato e indifeso. Il fatto poi che per decenni Israele abbia perseguito una politica di decapitazione della leadership di Hamas, assassinando figure di spicco come Ismail Haniyeh e Yahya Sinwar, senza ottenere poi grossi risultati politici, dimostra che la resistenza non è centrata sui singoli leader, ma risponde ad un bisogno collettivo di giustizia. Una menzogna troppo spesso propagandata in Occidente è che Hamas vuole distruggere il popolo ebraico. Questo è falso. Come ebbe a dire Ahmed Yassin, fondatore di Hamas, noi non combattiamo gli ebrei perché sono ebrei, ma perché ci hanno aggredito, ucciso, rubato la nostra terra e reso un popolo senza patria. Infine, quello che viene sottolineato dall'autore è il fatto che l'Occidente condanna la resistenza palestinese, non vedendo in questa la reazione alla brutalità dell'occupazione israeliana. Ma come ebbe a dire Sinwar in una intervista del 2021, il mondo si aspetta che siamo vittime ben educate mentre veniamo uccisi? Domanda che trova un senso alla luce degli eventi del 7 ottobre 2023. Sempre pubblicato da Amicizia Italo-Palestinese, troviamo l'articolo dal titolo L'Unione Europea presta 847 milioni di dollari a Israele in pieno genocidio a Gaza. Un'inchiesta giornalistica ha smascherato il coinvolgimento della Banca Europea per gli investimenti nel genocidio a Gaza. Violando la Convenzione sul genocidio, che impone ai governi e alle autorità pubbliche l'onere di prevenire e punire i crimini contro l'umanità, la banca ha finanziato fino ad ora Israele con prestiti per un totale di 847 milioni di dollari. Tali operazioni sono state effettuate attraverso l'intermediazione della banca israeliana Leumi. Leumi ha sostenuto a sua volta la costruzione e l'espansione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania, violando anch'essa il diritto internazionale, poiché la Corte internazionale di giustizia ha stabilito che l'occupazione israeliana di Gaza e della Cisgiordania è illegale. La Banca Europea per gli investimenti finanzia anche l'industria degli armamenti. Tra le aziende che si avvalgono dei suoi prestiti c'è anche l'italiana Leonardo, che ha fornito cannoni montati su navi militari israeliane utilizzate per ammazzare i palestinesi. Infine, vi invito a leggere l'articolo dal titolo Perché non sei all'AIA, pubblicato su Grayson, in cui vengono riportate le domande che Max Blumenthal e Sam Husseini hanno rivolto al segretario di Stato americano Tony Blinken in occasione della sua ultima conferenza stampa. Domande decisamente scomode che hanno messo in luce le sue responsabilità politiche e quelle dell'amministrazione americana nel genocidio israeliano a Gaza. Nel link all'articolo che trovate sul nostro blog potete vedere anche i video che mostrano il momento in cui questi due straordinari giornalisti sono stati allontanati in malo modo dalla conferenza stampa solo per aver svolto il loro mestiere. Per oggi è tutto, restituisco la linea allo studio. والله ما توحشناش اللي شوتني كل يوم بحكولي صبري سلاحي واخر صبر الموت والكل شايف بس لا مش فارق صوتي Ilan Papé è uno storico israeliano di rilievo, noto per i suoi studi sul conflitto israelo-palestinese e per il suo approccio critico alla narrazione storica tradizionale. Professore di storia presso l'Università di Exeter, Papé si concentra sull'analisi della storia contemporanea di Israele e Palestina, con particolare attenzione ai temi della pulizia etnica, del colonialismo e dei diritti umani. Figura controversa, ammirata da alcuni per la sua schiettezza e criticata da altri per le sue posizioni non convenzionali. Qui, in questa intervista, Papé analizza con profondità e lucidità la brutalità israeliana, l'indifferenza dell'Occidente e l'importanza di comprendere il contesto storico che ha plasmato la resistenza palestinese. Il 14 gennaio di quest'anno centinaia di accademici, funzionari, attivisti internazionali per i diritti umani e danesi, tutti sconvolti dal genocidio israeliano contro i palestinesi a Gaza, hanno partecipato alla manifestazione nella capitale danese organizzata dalla Rete Europea Palestinese. Papin ha detto in seguito al pubblico che dallo scoppio dell'ultima guerra di Israele su Gaza è rimasto scioccato dalla risposta europea e ha dichiarato: "Condivido con molti la sorpresa della posizione europea. L'Europa, che si dichiara un modello di civiltà, ha ignorato il genocidio più trasmesso in diretta dei tempi moderni." Ascoltiamo Ilan Papin. I think that for someone Penso che uno come me, che ha scritto sulla storia di Israele e Palestina, vivendo lì e osservando gli eventi, probabilmente si sorprenda meno rispetto a molti altri dal livello di brutalità e disumanità israeliana. L'avevo previsto 25 anni fa, avvertendo che Israele stava prendendo questa direzione. Ho detto che avrebbe cercato il momento storico, dal suo punto di vista, per eliminare la Palestina come idea, come popolo e come nazione. Perché anche se esiste ancora un solo palestinese nella Palestina storica, o una sola persona nel mondo che chiama Israele Palestina, e che crede che un'ingiustizia storica sia iniziata alla fine del XIX secolo e non sia ancora terminata oggi. Finché tutto ciò accadrà, Israele, con tutta la sua potenza militare, economica e con l'alleanza globale che lo sostiene, continuerà a perseguire questo obiettivo. Gli israeliani si sentono insicuri e percepiscono di non poter condurre una vita prospera, come era stato promesso a generazioni di ebrei, convincendoli che sarebbe stato molto meglio vivere nella Palestina storica piuttosto che altrove nel mondo. Questo include molte comunità ebraiche nel mondo arabo, che non avevano vissuto l'antisemitismo subito dagli ebrei in Europa e che hanno commesso il terribile errore di venire in Palestina per diventare cittadini di seconda classe nello Stato ebraico. No, non sono sorpreso, mi dispiace dirlo, dal livello di brutalità. Ma sono sorpreso dall'incomprensibile indifferenza dell'Occidente. I did not anticipate that kind of level of Non mi aspettavo un tale livello di totale disinteresse disregard for a genocide per un genocidio che vediamo quotidianamente, se non ogni ora, sui nostri schermi. Non esiste modo di manipolare le parole per descriverlo come qualcos'altro. Quando i numeri, le immagini e le storie parlano così chiaramente, anche se tu fossi il politico più cinico, penserei che ci sia un minimo di umanità in te, qualcosa che non ti permetta di dire che gli interessi nazionali, strategici o politici siano più importanti di qualunque rischio potresti assumerti. E così facendo, anche se finissi per essere complice di un genocidio, non ti importerebbe. Non mi aspettavo una simile indifferenza da parte dell'Occidente globale, davvero. Voglio dire, avevo già pochissima fiducia nelle idee di universalismo e giustizia internazionale promosse dall'Occidente globale ed ero molto scettico riguardo le loro posizioni. Ma anche con tutto quel mio scetticismo, non avrei mai potuto immaginare un comportamento e una condotta di questo tipo. Ciò che sta accadendo è davvero qualcosa che necessita di un'analisi più approfondita. L'unica spiegazione che riesco a dare, ed è ciò che cercherò di fare ora, è che questa reazione isterica, sia in Israele che in luoghi come la Germania, i partiti di destra in Europa, il Partito Repubblicano e l'establishment del Partito Democratico negli Stati Uniti, abbia una radice comune. ovvero la paura del contesto. Sono profondamente preoccupati quando si parla di contesto. Se ricordate, quando il segretario generale delle Nazioni Unite ha dichiarato che, nonostante la sua condanna delle azioni di Hamas del 7 ottobre, voleva ricordare al mondo che quell'operazione non avveniva dal nulla, ma da un contesto, Israele ha immediatamente chiesto che fosse licenziato. Il Dipartimento di Stato americano ha pubblicato quindi una condanna della contestualizzazione, seppure in termini molto blandi e non del tutto accurati, poiché ha fatto riferimento al 1967 senza menzionare affatto il 1948. Il semplice fatto che si possa guardare all'azione palestinese del 7 ottobre, nel contesto della resistenza, dell'anticolonialismo, come una risposta a oltre un secolo di pulizia etnica, di genocidio e così via, è qualcosa che Israele ha chiesto alle elite occidentali di escludere dalla conversazione, e queste hanno risposto prontamente. Ogni giornale in Norvegia, ogni giornale in America, ogni giornale in Germania che non appartiene ai media alternativi non osa menzionare il contesto. E quando chiedi ai giornalisti perché non lo fanno, ti rispondono: beh, sai, abbiamo solo 1000 parole per coprire gli eventi. Io rispondo: datemi 50 parole e vi darò il contesto. Non servono 1000 parole per quello. بالمصنع واحمل رشاشك والمدفع واضرب برصاصك لا تفزع اسرع في التل وبالسهل واسرع في الحقل وبالمصنع واحمل رشاشك والمدفع واضرب برصاصك لا تفزع اسرع للجبهة أبطالا تأتي للموت ولا ترجع واصنع للثورة أمجادا أنوارا في ليلك تصنع اسرع للجبهة أبطالا تأتي للموت ولا ترجع واصنع للثورة أمجادا Passiamo ora al presidio di piazza Shirin Abu Akleh e sotto il rettorato universitario, dove gli studenti hanno chiesto la fine della collaborazione dell'università con le aziende israeliane complici del genocidio. Petrucci, scegli o fai la rettrice o stai con Med Or. Questo lo slogan e il senso del presidio di sabato 18 davanti al rettorato, per l'incompatibile permanenza della rettrice Petrucci nella fondazione MedOr. MedOr è una fondazione di Leonardo, azienda partecipata dallo Stato italiano, che esporta armi anche in Israele, contravvenendo alla Costituzione italiana e alle norme europee. Tutto questo mentre la sindaca di Firenze, Sara Funaro, ripete il mantra della città promotrice di pace, ma nel frattempo non risponde alle lettere delle associazioni per la Palestina e non muove un dito. Questo è il commento di Mapi, una ragazza di rete antisionista e anticolonialista, nell'intervista di Claudio. Radio Wombat, buongiorno Palestina. Siamo qui oggi in piazza San Marco a Firenze, dove c'è una manifestazione. Che manifestazione? Qui di manifestazioni in piazza San Marco se ne sono fatte diverse, e anche oggi è sulla Palestina, ma con un carattere particolare. Qual è questo carattere? Ne parliamo con Mapi dell'associazione della rete antisionista, antirazzista, e le chiediamo in primo luogo che cos'è la rete, questa rete. Allora sì, io sono Mapi e parlo a nome di tutte le 20 e più realtà regionali che hanno partecipato alla costruzione di questa piazza e verso la costruzione di una rete antisionista e anticolonialista che stiamo cercando appunto di formare in tutto il territorio nazionale, con l'auspicio di riuscire a coordinarci, ad organizzarci tra tutte quelle realtà che sostengono la causa palestinese per la liberazione della Palestina e a fianco della resistenza palestinese. Questa piazza è per noi molto significativa perché, oltre alla grande partecipazione da tutta la regione, siamo davanti al rettorato universitario. Ecco, davanti al rettorato universitario, ecco, con quale tipo di richieste, con quale tipo di rivendicazioni? Allora, la giornata di ieri e la giornata di oggi sono giornate nazionali contro l'industria bellica, quindi per noi è fondamentale mettere al centro il ruolo di Israele come pericolo non soltanto per la Palestina ma per tutta l'umanità, perché come abbiamo visto con l'attuale governo Meloni, ma anche con tutto l'arco parlamentare, le amministrazioni precedenti e la finta opposizione del centro-sinistra appoggiato appunto dalle politiche del governo europeo, ci stanno portando a un'escalation bellica. E perché davanti al rettorato? Perché in questa cornice si inseriscono anche i rapporti che l'Università di Firenze ha con la Leonardo S.P.A. che utilizza le competenze tecniche e ingegneristiche degli studenti e delle studentesse di UNIFI a scopi non civili ma militari, e questa cosa per noi è vergognosa. E la rettrice dell'Università di Firenze fa parte della Fondazione MEDOR appunto. Ecco, che cos'è questa Fondazione MEDOR? È una fondazione che esiste dal 2021 e che a detta loro cerca di promuovere la collaborazione tra gli Atenei fiorentini e la Leonardo S.P.A. come azienda. Per noi invece è la deriva bellica a cui stiamo assistendo, in cui l'università si rende partecipe in prima persona dell'implementazione delle industrie belliche e delle fabbriche di armi. E che cosa si chiede alla rettrice? Noi siamo qua sotto il rettorato per chiedere le dimissioni della rettrice il ruolo appunto di rettrice universitaria di UNIFI oppure dalla Fondazione MEDOR, perché crediamo che questi due ruoli siano incompatibili. Quindi o una cosa o l'altra. Ecco, noi vediamo con molto entusiasmo questo fiorire di iniziative e anche di reti. Non importa quanto numerose, ma l'importante è che si diano da fare i giovani in tutte le circostanze. Grazie per l'ascolto e grazie Mapi. Grazie mille, ciao. شلالات الدم وبيوت هدم شلالات الدم وبيوت هدم قاومت وقمت الشوكة في حلق التنين أرهبت الدبابات العزل بالسكين قاومت وقمت الشوكة في حلق التنين أرهبت الدبابات العزل بالسكين أطفالك يدم يدم شلالات الدم وبيوت هدم شلالات الدم وبيوت هدم بشموخك أنت صفعت رقاب المهزومين والمنتظرين بيأس عود صلاح الدين بشموخك أنت صفعت رقاب المهزومين والمنتظرين بيأس عود صلاح الدين كنت الأسطورة بل كنت جنين جنين جنين شلالات الدم وبيوت هدم شلالات الدم وبيوت هدم كاميرات العالم تحصي نفس المحتضرين وفضائيات العرب تغني لفلسطين كاميرات العالم تحصي نفس المحتضرين. Il 17 gennaio scorso al Cinema Alfieri è stato proiettato No Other Land, il documentario girato da un collettivo di 4 registi: Basel Adra, palestinese; Yuval Abram, israeliano; Amdam Ballal, amico di Basel; e Rachel Zohr, regista israeliana con base a Gerusalemme. Il film tratta di Massafer Yatta, un agglomerato di 20 villaggi al confine sud della Cisgiordania. In questa comunità, che si regge su un'economia di tipo agricolo, alcuni villaggi sono così antichi che conservano ancora alcune grotte, tuttora abitate, perché le nuove case edificate vengono sistematicamente distrutte dalle ruspe israeliane e insieme a queste anche le scuole, i depositi d'acqua, i pozzi che vengono cementati, tutte azioni repressive ai danni di una comunità inerme che trova modi per resistere, ricostruire e non reagire con la violenza contro gli espropri voluti dallo Stato di Israele, che di quel territorio sostiene di avere diritto di fare zona di addestramento militare. Il documentario ha un valore altissimo di testimonianza, anche retrospettiva. Una violenza che va avanti da decenni e che Basel e altri hanno iniziato a filmare autonomamente a rischio della propria vita. Le loro riprese si estendono tra l'estate del 2019 e ottobre 2023. Si sono concluse quindi a ridosso dell'attacco di Hamas e della conseguente reazione israeliana ancora in corso. Tra i molti premi raccolti lungo il 2024, Noah Adarland ha vinto l'Audience Award e il Panorama Documentary Award alla Berlinale ed è stato votato miglior documentario europeo agli European Film Award del 2024. Attualmente è in shortlist nella categoria documentari agli Academy Award del 2025. Il film è stato presentato da Leila Hassan, dei Giovani Palestinesi, e Karem Rohana, sanitario e attivista palestinese. Entrambi ci hanno concesso una breve intervista prima e dopo la proiezione del film. Ascoltiamo Leila. Sono Gianna di Buongiorno Palestina, sono qui all'Alfieri, prima del film. L'ha incontrato Leila, che è già stata ai nostri microfoni anche per la sua tesi, mi ricordo, un anno e mezzo fa circa, e adesso è qui a Firenze e tra l'altro si è trasferita a Firenze. Vorrei un suo parere per quanto riguarda il discorso ormai attualissimo della tregua. Che cosa sta succedendo a Gaza e che cosa pensi che potrà succedere? Allora, intanto buongiorno, buonasera, perché non so, buongiorno, perché buongiorno Palestina. E su ciò che riguarda, insomma, le cose che sono accadute nelle ultime, diciamo, 48 ore, il cessato il fuoco / tregua, che poi chiaramente è un discorso che sta andando avanti da diversi mesi, abbiamo visto tutti i precedenti tentativi sia di proposte di cessate il fuoco che poi anche di risoluzioni al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che sono sempre falliti sempre miseramente. Quello che cambia adesso in questa circostanza sono vari elementi. Intanto dobbiamo tenere in considerazione che dall'annuncio del cessate il fuoco, che abbiamo visto essere stato accolto con festeggiamenti e celebrazioni da tutti i palestinesi in giro per il mondo, sì, grandi moti di felicità, chiaramente per noi che viviamo qua, anche noi palestinesi che viviamo qua, è impossibile immaginare che cosa vuol dire vivere da più di 450 giorni sotto le bombe, con un'assenza prolungata di accesso alle risorse di ogni tipo. Quindi chiaramente la notizia del cessate il fuoco ha in qualche modo riempito un po' di speranza le persone che stanno letteralmente sopravvivendo, e chi oggi è ancora in vita a Gaza è l'esempio di una grossa e grande e coraggiosa sopravvivenza. E dopo, diciamo, l'entusiasmo del festeggiamento dell'altra sera, chiaramente ha preso più spazio un interrogativo su che cosa accadrà, su che cosa succederà, su se questa tregua verrà effettivamente rispettata, come abbiamo visto il Libano non è stata mai rispettata, e vediamo, contiamo dopo. الحب طعم الدل والدل لا يذهب في وقتنا الأصعب إلا إذا قاتل الخبز طعم الدل والذل لا يذهب في وقتنا الأصعب إلا إذا قاتل. يا ميجنا يا ميجنا يا ميجنا يا كل يا ميجنا دوري في الأرض والدوري في وجهنا الأقصى في أفقنا الأرحب. يا ميجنا يا ميجنا يا ميجنا يا كل قل أين نذهب والمنافي ضيقة ليل على ليل دروبك والنوافذ مغلقة ذكرى ستحملك الطفولة والمرايا. Ascoltiamo Karem in una prima parte dell'intervista. Sono qui davanti al Cinema Alfieri dopo aver visto il film e è qui con me Karem Rohana che vorrei intervistare, almeno chiedere qualcosa soprattutto sul discorso della tregua in questo momento. Che cosa ne pensi? Che cosa ne pensi? Come sarà la situazione a Gaza? Ci sarà veramente questa tregua? Prima o poi doveva arrivare, anche perché lo stesso accordo era stato proposto. Era lo stesso di maggio. Proposto di maggio, esatto. Ma probabilmente era stato proposto una bozza simile anche prima. E Israele però ha voluto fare questa vendetta senza obiettivi militari, ma semplicemente mandare questo messaggio di annientamento alla popolazione, a tutta la popolazione palestinese, non solo Hamas come dicono loro, che anche se fosse stato solo Hamas, ma qui poi si entra nei meandri del diritto internazionale, perché dal mio punto di vista Israele non doveva sparare un colpo di pistola. Il giorno dopo, il 7 ottobre, doveva dire va bene, abbiamo sbagliato tutto, ora iniziamo a applicare il diritto internazionale, il diritto umanitario, e nel momento in cui inizia a applicarlo, se poi Hamas, palestinese, resistenza palestinese fa qualcosa, puoi rispondere con il fuoco. Nel momento in cui te sei potenza occupante, no, certo, non puoi fare niente, anche per il diritto internazionale non puoi fare, puoi difenderti lì nell'immediato ovviamente se fa qualcosa, però loro hanno voluto portare avanti questo genocidio per più di 15 mesi senza obiettivi militari, appunto perché poi sono stati costretti alla Hamas, che volevano distruggere, annientare, terroristi non tratteremo mai, con chi sono i loro interlocutori? Sono ancora Hamas, quindi trattando con loro li hanno legittimati ulteriormente politicamente. Sono ancora vivi, gli hanno dato hanno dato legittimità anche alle loro richieste politiche. Stanno trattando con Hamas. L'obiettivo che hanno raggiunto è stato dare la caccia ai bambini, ai civili per 15 mesi. E purtroppo lo faranno, perché non uso la parola caccia a caso, loro vanno proprio a caccia, si vede anche nei video dove inseguono bambini, dove si mettono con i cecchini sui tetti delle case a Gaza e sparano, dipingono delle linee immaginarie fra loro e dicono chi la supera li ammazziamo, e lo fanno con famiglie, bambini, anziani. Non ci sono solo testimonianze, video, dirette, ma loro lo ammettono tranquillamente. Chi legge un po' di stampa israeliana, come faccio io, si legge le interviste anche di rilasciano su Arez o il Jerusalem Post, e ci sono soldati e tranquillamente lo dicono, lì non c'era, entravamo a Gaza e noi ci sentivamo Dio, e sono lì letteralmente per vendetta, lo ammettono tranquillamente e serenamente. Gli obiettivi militari infatti non c'è, perché come hanno distrutto il diritto internazionale per portare avanti degli obiettivi che non c'erano. Perfino gli ospedali. Sono stati presi di mira come se fossero dei... E il problema è anche questo, vedere gli ospedali che noi sottovalutiamo, nel senso, a noi ci sembra un problema che riguarda solo Gaza, e Israele però facendo così, e quindi scavalcando il diritto internazionale e tirandosi dietro tutto l'appoggio degli stati conniventi e dei regimi conniventi, compreso il nostro, quello italiano, l'impero americano, che cosa, ha rimodellato il diritto internazionale per permettere, rendere quasi legittimo, accettabile, sia all'opinione pubblica mondiale, poi non c'è riuscito. Del tutto non c'è riuscito, visto appunto che la Corte Penale Internazionale, mi sembra, sì, ha emesso due bei mandati di cattura che probabilmente non verranno mai eseguiti. Però sono un simbolo anche quello, perché alla fine in questo momento si lotta per i simboli, perché a livello militare ovviamente appoggiato, essendo Israele una colonia americana, essendo paese più finanziato, uno degli eserciti più potenti al mondo, non è che lo distruggi militarmente, ma non è nemmeno l'obiettivo, perché l'obiettivo sarebbe di far rispettare il senso per cui è stato creato l'ONU, il senso per cui sono stati creati, insomma, le istituzioni internazionali, per mantenere la pace, per non superare delle linee rosse che Israele superava già da prima, Israele, per quanto mi riguarda, le ha superate proprio nel momento in cui è stata creata, perché non aveva senso. Molti pensano che smantellare Israele significhi buttare gli ebrei a mare, buttare gli israeliani a mare, però non è questo. Smantellare Israele significa poi ripartire da... che Israele continuerà a fare queste cose, quindi è questo il punto. Quando dicono due popoli, due stati, Israele continuerà a essere lo stato, stato canaglia che è. Quindi, Palestina non è stata ancora riconosciuta come stato. Tra l'altro, ma anche fosse riconosciuta, Israele continuerebbe a comportarsi in questo modo, perché è stata creata in questo modo, con questo scopo, con questa... è quasi una religione, è la fede dell'oppressione. I loro soldati non hanno obiettivi militari, vanno per rendere la vita dei palestinesi impossibili in ogni modo, ed espandersi. Infatti non ha dei confini definiti Israele, l'unico stato al mondo che non ha dei confini definiti, e quindi l'obiettivo sarebbe, per quanto mi riguarda, l'auspicio che ho è che venga rispettato il diritto internazionale, si riparta dalle basi dell'umanità e si vada nella direzione di che in quella terra chi ha fatto dei crimini, ovviamente, spero paghi, ovvero i soldati, chi ha partecipato al genocidio, sono parecchi, però si riparta da un modello per il futuro che sia una terra con uguali diritti per tutti e cose di questa. E a me mi dispiace un po' che non se ne sta nemmeno parlando di questa cosa. Si parla, cioè, quelli più, dico, se ne parla magari noi in ambienti dove si conosce la situazione, però a livello governativo, a livello ONU, al massimo dicono due popoli, sempre due stati, non rendendosi conto che uno degli stati è un grosso esercito, è un grosso esercito e ha come obiettivo l'oppressione di un altro popolo. Non è Israele è un progetto nato in questo modo, un progetto coloniale nato in questo modo, e quindi è difficile. E ora che ci sarà la tregua, anche ci faremo caso ora in questi giorni, e ci abbiamo già fatto caso, nel momento in cui hanno dato la tregua, visto che loro non volevano arrivare a una tregua, non volevano veramente arrivare agli ostaggi, ora c'è letteralmente la caccia ai bambini. Te vedi soldati israeliani che dicono: abbiamo 3 giorni per andare a caccia e uccidere più possibile. Perché domenica dovrebbe scattare il cessare il fuoco, secondo me non riusciranno a rispettarlo, perché essendo abituati all'impunità e completamente alla deresponsabilizzazione, i soldati che sono ancora a Gaza non rispetteranno gli ordini, andranno a caccia, i palestinesi continueranno a farlo. E poi sembra che si spera che diminuirà la cosa. Poi si sono spostati sulla Cisgiordania, hanno bombardato Jenin. È una situazione apocalittica. È apocalittica, noi non ci si rende conto da qui, non me ne rendo conto nemmeno io, sto dietro a tutte le notizie, ma è una roba apocalittica. Qual è il punto? Che nonostante loro abbiano l'appoggio dei governi, non gli verrà perdonato dalle persone libere del mondo, che sono tante e sono la maggior parte. Stanno iniziando a uscire film, libri, documentari, inizieranno a uscire con una frequenza e una mole, una quantità e una qualità tale che il cambiamento culturale è a parte auspicabile, ma è assolutamente prevedibile, perché loro possono controllare il governo Meloni che li appoggia, possono controllare Tajani, letteralmente gli mettono le parole in bocca, possono controllare Biden, Trump, tutto il mondo dei potenti, ma le persone libere, quando parte il cambiamento culturale, e questo qui non lo possono fermare, perché non si possono mettere a censurare film e libri in tutto il mondo, lo possono fare nel loro paese, ma non lo possono fare qui, e non lo possono fare nel resto del mondo, che un minimo la società civile è rimasta, qualcosa sta reagendo e ora inizierà a uscire film, documentari e libri, le persone scopriranno veramente cosa è Israele, quello che i palestinesi sanno e gridano gridano da 76 anni. Israele, secondo me, per un po' avrà una guerra civile, perché il trauma del 7 ottobre ha nascosto le divisioni interne a una società che non è una vera società, una società creata a tavolino fra persone diverse, e come scopo hanno l'oppressione dei palestinesi. E quando si sveglieranno e si dovranno guardare in faccia, inizieranno a spararsi probabilmente fra di loro, perché è l'unica cosa che sanno fare. Paisaje. Parliamo ora del convegno Verso il giorno della memoria, a ricordare al tempo di Gaza, iniziativa del gruppo Mai Indifferenti, Voci Ebraiche per la Pace. Convegno svoltosi a Milano domenica 19 presso la Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli. Aperto da un intervento di Lea, laboratorio ebraico antirazzista, l'intero convegno è riascoltabile presso il sito di Mai Indifferenti, di cui troverete il link sulla pagina blog della trasmissione di oggi. Prima dell'inizio del convegno abbiamo parlato con Eva Schwarzwald, una delle organizzatrici. Ecco cosa ci ha detto. Siamo alla Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli di Milano e sta per iniziare l'iniziativa Verso il giorno della memoria, ricordare al tempo di Gaza. Ne parliamo con una delle organizzatrici, che è Eva Schwarzwald, e che ha seguito questa iniziativa e risponderà a qualche nostra domanda. Allora, la prima cosa che vogliamo chiedere e quali sono le aspettative di questa iniziativa, perché questa iniziativa sta suscitando molto interesse da parte di noi che siamo diciamo così pro-PAL, siamo filo-palestinesi, ma che consideriamo con estremo interesse quello che avviene nel mondo ebraico, tanto che a Firenze stiamo organizzando una iniziativa sui valori dell'ebraismo, cioè si tutelerà probabilmente ebraismo, sionismo e avrà luogo tra qualche settimana. Allora, a Eva chiediamo quindi quali sono le vostre aspettative rispetto a questa iniziativa. Poi, buongiorno a tutte e tutti e grazie per questa domanda che diciamo proprio si dirige a quello che è il nostro intento oggi, che è quello di allargare il panorama non solo del mondo italiano in genere, ma anche degli ebrei che ad oggi sembra vogliano girarsi dall'altra parte e cercare di non vedere cosa sta succedendo. Quindi, come vedrete, abbiamo invitato nel nostro programma, c'è non solo Lea, il laboratorio ebraico antirazzista, che sicuramente ha una modalità di intervento che è un po' diversa, sono più attivisti, tra virgolette, fanno delle azioni anche fisiche, diciamo, e sono anche più giovani mediamente della nostra rete, che è nata comunque da un gruppetto di persone over. Quindi l'idea è questa, di ampliare le conoscenze con altri gruppi, con quelli naturalmente di ebrei ed ebrei che ci stanno ad avere un occhio differente nei nostri confronti. Poi anche quello di portare all'attenzione del pubblico dei relatori che raccontano cose un po' diverse da quelle che si leggono mediamente sul media mainstream. Voi come sviluppo della giornata di oggi, voi vi attendete che si parli della tregua annunciata o in corso, che si parli della situazione generale, delle prospettive, o avete soprattutto interesse a creare dei legami tra le diverse organizzazioni italiane e estere? Il nostro focus oggi non è la tregua, anche perché sulla tregua stiamo a vedere cosa succederà, perché intanto è una tregua e non è una pace, e vediamo come sarà condotta. Quindi noi non vogliamo discostarci da quello che è il nostro programma e la nostra scaletta. Naturalmente ci sarà un dibattito dopo i relatori programmati e quindi sarà anche inevitabile che magari qualcuno voglia sia esprimere il suo pensiero su come intravede la prosecuzione di questi annunci di tregua e sia, capiremo anche cosa succede oggi pomeriggio, perché mentre noi siamo qui dovrebbero rilasciare i primi ostaggi. Ecco, la sensazione vostra è che nel mondo ebraico ci sia in termini generali una una discussione in atto su quello che sta succedendo, oppure che ci siano larghe parti del mondo ebraico, le comunità ebraiche italiane in particolare, che vorrebbero non sapere. Ecco, questa è la sensazione che abbiamo noi, ma qual è la vostra sensazione riguardo al dibattito che alcuni dicono che è molto vivace nell'ambito del mondo ebraico a tutti i livelli? Ma la nostra sensazione è intanto che le comunità ebraiche, diciamo, abbiano una definizione politica piuttosto centrodestra, diciamocelo. Poi noi stessi a Milano abbiamo avuto un episodio recente in cui ci siamo opposti al fatto che al presidente della comunità venisse dato l'Ambrogino d'Oro, che è un'onorificenza milanese, visto il suo posizionamento come amico del cuore di La Russa. Quindi abbiamo partecipato anche a un incontro alla comunità dove non sto a riferirvi quale fosse l'andamento, ma certo ci sono stati degli interventi piuttosto inquietanti rispetto ai palestinesi. Quindi le comunità sono molto miste, mescolate, ma insomma diciamo che non c'è un orientamento di grande apertura verso il tema. E poi comunque la prima cosa che tutte le comunità fanno è di schierarsi con Israele. Le critiche preferiscono tenerle per sé e non esprimerle, anche se sicuramente ci sono delle critiche verso il governo israeliano, ma quelle vengono tenute piuttosto sopite, anche perché sapete che appena tu critichi ti dicono che sei antisemita. E questo è uno dei temi di oggi. Grazie Eva, adesso andiamo al convegno, grazie. Per la rubrica Il sindaco non risponde, trasmettiamo l'intervento di Dimitri Palagi, capogruppo di Sinistra Progetto Comune, in Consiglio Comunale il 13 gennaio, sulle non risposte della sindaca Funaro alle lettere e alle richieste di incontri con la popolazione, che anche domenica 12 gennaio ha manifestato per la Palestina. In particolare Firenze per la Palestina e le associazioni per la pace. Grazie Vicepresidente, ben ritrovato Assessore, mi fa piacere ci sia anche la Sindaca in aula, non la tiro in ballo perché il question time è stato assegnato a lei, ma chiaramente le lettere si rivolgono direttamente a chi governa la città avendo vinto le elezioni, perché le cariche elettive riguardano il Consiglio Comunale ovviamente e la Sindaca, senza nulla togliere all'importanza ovviamente della Giunta. Lo dico perché ieri tante persone non si stavano divertendo al freddo, erano a manifestare. Firenze, a differenza di altre città, ho visto che la segretaria nazionale del Partito Democratico ha detto che il governo nazionale dovrebbe essere al fianco delle sindache e dei sindaci quando si verificano dei problemi di sicurezza e di ordine pubblico. Vi segnalo che ieri la manifestazione di Firenze si è svolta con grande tranquillità, anche grazie ovviamente al lavoro delle forze dell'ordine e di tutte le parti coinvolte. E quella manifestazione ricordava che nel mese di novembre sono state scritte varie lettere, una di Firenze per la Palestina e una di una serie di movimenti, realtà, associazioni per la pace. Noi abbiamo recuperato entrambe quelle lettere, le abbiamo depositate sotto forma di interrogazione. Da novembre a oggi non c'è stata una sola risposta, né alla nostra interrogazione né a quelle lettere aperte. Tanto che a inizio gennaio di quest'anno, pochi giorni fa, Eros Cruccolini, che è anche garante delle persone private di libertà e Moreno Biagioni hanno scritto un'altra lettera e vi hanno chiesto: come mai non ci state rispondendo alle nostre domande? Come mai Firenze, città operatrice di pace, non sta rispondendo a queste domande? E quindi a noi è sembrato giusto, in tempi così complessi, temendo che possano complicarsi ancora più le situazioni, capire qual è l'impegno della nostra città rispetto a queste lettere che abbiamo ricevuto, perché non stiamo rispondendo e se vogliamo convocare queste realtà per un dialogo anche come esecutivo che governa la città. Prego, Assessore Bettarini, per la risposta. Grazie Presidente, buongiorno Capogruppo Palagi. Beh, in realtà mi sembra il tema che queste lettere, in particolare quella del 6 gennaio, sollevano sono un tema, anzi dei temi molto ampi, molto impegnativi, non direi per l'esecutivo di un'amministrazione comunale, direi per tutti. È una cosa molto ampia, un impegno che viene rivolto in maniera, direi, diffusa a tutte le forze politiche, istituzionali, di governo e non della città. Le persone che l'hanno scritto, in particolare Eros Cruccolini, sono persone con le quali siamo continuamente in contatto e con cui sicuramente anche ci confronteremo su queste cose, ma in particolare la sindaca è da sempre vicina a questi temi e ha un'interlocuzione costante con tantissime di queste realtà. Non vorrei però che un tema di questo tipo si facesse un po' svilire da una dialettica consiliare, come se ci fosse qualcuno a favore o contro o se non ci fosse abbastanza attenzione. Da parte nostra c'è enorme attenzione ovviamente a questi temi, ma non credo sia un merito, penso sia un dovere in un periodo che viviamo così difficile, così complicato da tutti i punti di vista nazionali e internazionali, per le numerose vicende che succedono sullo scacchiere internazionale e anche per le vicende politiche che ne susseguono. Dunque, appunto, io manifesto ampia disponibilità, come è normale che sia, per un'interlocuzione che comunque c'è e che penso sia giusto far proseguire. Sì, prego per la replica, Capogruppo Palagi. Grazie Vicepresidente, grazie Assessore per la risposta. No, non riduciamo la normale dialettica, la Commissione 7 e il Consiglio Comunale stanno lavorando, tutti i gruppi consiliari stanno lavorando. Volete dimostrare disponibilità al dialogo? Rispondete alle interrogazioni come è previsto dal regolamento, rispondete alle lettere aperte che vi vengono mandate, incontrate le persone, non tanto le singole con cui già ci sono altri tipi di interlocuzione, ma anche quelle che possono sembrarvi più distanti. Ieri c'erano centinaia di persone che hanno la residenza in questa città che vorrebbero dialogare anche con voi. Loro sarebbero contente di non avere soltanto la sinistra di opposizione come interlocutrice. Nel frattempo noi vi abbiamo chiesto alcune cose. Perché il sindaco di Tulcare ha incontrato il presidente della regione e non la sindaca della città di Firenze? Perché su determinate questioni la nostra voce non è forte come quella di altre città con l'esposizione della bandiera della Palestina da Palazzo Vecchio? Potete risponderci e non siete d'accordo su determinate azioni, ma almeno rispondete. La dialettica normale prevede la capacità di assumersi delle responsabilità anche su temi più complessi. Grazie. Come abbiamo detto, tante sono le manifestazioni e i presidi che si tengono ovunque in Italia e in Toscana, ovviamente, per la liberazione della Palestina e il riconoscimento di uno Stato di Palestina. Vi leggiamo quindi un elenco delle prossime iniziative. Dal 25 gennaio alle ore 16.30 nella Sala Pegaso, Palazzo della Provincia di Grosseto, la questione medio orientale con Corinna Vincenzi, Donne in Nero, Luisa Morgantini di Assopace Palestina e la presenza di Anna Fuà, storica e saggista, per la presentazione del libro Il suicidio di Israele. Sempre il 25 e anche domenica 26, una tenda per Gaza, orario 10.18, in piazza della chiesa di Donoratico, raccolta di materiale aiuti umanitari per Gaza. Martedì 21 invece alle 12.30 presso il Palazzo Ducale a Massa Carrara saranno presenti Monio Vadia, Ali Rashid, George Romeo in un'iniziativa che si chiama Gaza fuori fuoco. 31 gennaio a Firenze al Teatro Le Laudi alle ore 20. Non dimenticarti mai del cielo. Iniziativa contro la guerra, poesie, racconti, illuminazioni con Giuseppe Cederna. Ingresso a offerta libera a partire da 8 euro. Sul volantino info e prenotazioni. 1 febbraio dalle ore 10 all'Info Point in Piazza della Stazione 4 a Firenze, contro il governo e i padroni, 7ª conferenza nazionale. Unire le lotte contro il capitalismo. Durante la conferenza ci sarà la presentazione del libro La storia nascosta del sionismo di Ralph Schoeman. Informazioni e numero di telefono sul volantino. Sabato 25 gennaio, Piazza Santissima Annunziata, corteo dalle ore 16 a Firenze, aggiorniamo la memoria, il genocidio è ora, organizzato da Giovani Palestinesi d'Italia, corteo alle 16, un genocidio che si consuma da oltre 450 giorni, in realtà si perpetua da più di 76 anni contro il popolo palestinese. Un accordo di cessate il fuoco a Gaza è stato firmato, ma questo non ferma la nostra lotta, perché in Palestina le persone continuano a morire sotto i bombardamenti. Domenica 26 gennaio alle ore 18 alla Comunità delle Piagge, la Comunità delle Piagge presenta Chi è Donald Trump di e con Stefano Massini. Ingresso libero. 6 febbraio 2025, assemblea e tesseramento, associazione culturale Livorno Palestina, al Circolo Arci Norfini in via di Salviano 51, dalle ore 17.30. Saranno descritte le prossime iniziative, tra le quali una serata dedicata alla proiezione di filmati sulla situazione in Cisgiordania e Gaza, e la presentazione di libri di autori militanti sulla lotta di resistenza del popolo palestinese. Al termine dell'assemblea riservata ai soci ci sarà una periscena aperta a tutti. Informazioni e prenotazioni al numero di telefono sul volantino. Per la consueta rassegna musicale, in questa trasmissione avete ascoltato Palestine Dabka, Rajin, Musica per la Resistenza e per finire avete ascoltato Amel Mahtlouti in Nessi in Palestina. E questa era la nostra ultima notizia. E con questo ci salutiamo e vi diamo appuntamento al 5 febbraio, sempre alle 17.30, sempre su Radio Wombat. Inshallah. Jump, jump, jump.